100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. Ancora una volta le borse ringraziano le banche centrali. La settimana scorsa tutti i listini internazionali hanno mantenuto rialzi consistenti in virtù delle indicazioni che sono arrivate dalla Federal Reserve, che ha detto che alzerà i tassi di interesse con gradualità e solo con un miglioramento più sostenuto di inflazione e di mercato del lavoro. Un messaggio che per gli investitori significa tempi più lunghi per una stretta monetaria, quindi non più giugno ma ottobre-dicembre. Ne ha beneficiato Wall Street ma anche il resto del mondo. L'euro venerdì è ritornato sopra quota 1,07 sul dollaro, la borsa di Tokyo si mantiene ai massimi da 15 anni a questa parte, qualche piccola tensione in più sul mercato obbligazionario, ad esempio lo spread fra BTP e Bund è risalito nella seconda parte della settimana sopra i 100 punti base. Molti i casi che hanno movimentato la settimana di Piazza Affari, Enel ha presentato i conti a Londra, anche il suo piano industriale, tutte le indicazioni hanno trovato l'apprezzamento del mercato, Fiat continua a correre, più 70% dall'inizio dell'anno a Piazza Affari. Pirelli è pronta a varare una riorganizzazione radicale finalizzata ad un'offerta pubblica di acquisto che farà naturalmente Canfi nella holding di riferimento della società, naturalmente l'OPA è poi finalizzata a delistare Pirelli dalla borsa italiana ed è in arrivo anche un importante partner asiatico per finalizzare tutta questa operazione. Anche Azimut, gruppo leader del risparmio gestito, ha annunciato una maxi riorganizzazione interna e infine i conti di Telecom che dopo 3 anni di rosso torna in utile nel 2014 per 1.350 milioni di euro. Per finire come sempre uno sguardo all'agenda della settimana che inizia con un discorso di Mario Draghi al Parlamento Europeo, stasera alle 18 incontro fra Angela Merkel e il premier greco Tsipras, dopo che Atene si è impegnata ad attuare il suo programma di riforme. Domani abbiamo i dati sulla manifattura europea e l'inflazione americana, mercoledì l'indice di fiducia tedesco IFO, venerdì nuovo discorso di Janet Yellen negli Stati Uniti sulla politica monetaria americana. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. La Pirelli dunque andrà ai cinesi. Sarà il colosso pubblico di Pechino, ChemChina, attraverso una nuova società che si chiamerà Bidco, a lanciare un'OPA, un'offerta pubblica di acquisto, sul gruppo, con un'operazione che vale oltre 7 miliardi di euro a 15 euro per azione. Il titolo oggi ha superato già quella soglia di prezzo, a 15,07 euro, con un balzo in mattinata del 3% e anche più. Segno che il mercato, non è ancora chiaro se a fini solo speculativi o effettivamente reali, scommette su una contropa di qualche altro competitor europeo non troppo incline a dare ai cinesi una porta d'ingresso in un mercato così ricco e strategico. La prima parte dell'azione di ChemChina prevede l'acquisto del 26,2% della quota detenuta da Canfin in Pirelli. Canfin è la società scatola con cui il patrono del gruppo Marco Tronchetti Provera controlla appunto l'azienda dei pneumatici. Anche i soci Canfin, Unicredit, Intesa, oltre ai russi di Rosneft e altri partner privati, parteciperanno al capitale della nuova società Bidco. L'obiettivo è creare una impresa con il 65% di capitale cinese e il 35% di capitale italo-russo e poi dividere in due la Pirelli, con una prima società focalizzata nella parte ad alto valore aggiunto delle gomme per auto e una seconda centrata sui pneumatici per camion e macchinari pesanti, con l'obiettivo di fonderla con la Aeolos, la società cinese, che già adesso opera in questo mercato, che così passerebbe dalla 28esima alla 4ª o 5ª posizione nella classifica mondiale. L'accordo prevede anche una clausola statutaria a tutela dell'italianità dell'impresa e impone l'obbligo del 90% del capitale per decidere su sede, investimenti in ricerca e management che per ora risultano blindati come italiani. Speriamo che basti. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.